fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui in diretta, 1:55, sabato 9 giugno 2018. Questa è sempre Risto Radio Convento in compagnia dei nostri ospiti, dei nostri festeggiati, e abbiamo un fenotipo del, come dire, del ragazzo del nord Italia, biondo, occhi azzurri. Hai occhi azzurri? No, perché vedevo un po' doppio. Biondo, occhi azzurri, e ti chiami? Matteo. Matteo, e dillo da dove vieni? Da Bolzano, chiaramente, come dicevo. Bravo. Giusto, quasi giusto. No. Il fenotipo, tra l'altro, non so se siete appassionati di calcio. Seguite un po'? Noi. Un po'? Noi siamo calciatori. Ciro Immobile? Ma proprio. No. Schweinsteiger. Ah, un po' Schweinsteiger, bravo. Io vedevo anche un po' di Immobile. Il quello di dirci per l'altezza. Ciro Immobile, dovrebbe sentirlo Andy. No, perché non odio la Lazio. Chi è ballerino di Dirty Dancing? Il tedesco, quello che è morto, però. Quello che è morto recentemente. Oddio, aspetta, non mi viene. Però Schweinsteiger mi ha entusiasmato. Sì, teniamo Schweinsteiger. Allora, Matteo, quindi da Bolzano, e insieme anche ad altri amici, ovviamente. Devi assolutamente. Ben, del cartone Ben 10. Giusto. Ten, dove l'avete lasciato? È fuori. Ah, è fuori, c'è comunque. Quindi confermate che vanno sempre in giro in coppia, cioè non possono essere separati. C'è Matteo Valentini, che non gli piace niente di tutto quello che abbiamo fatto finora. Gli piace molto Malta, però, e Daniel Giardino, che vabbè, lui è fortissimo e vince sempre tutto. Ma complimenti, insomma, è una qualità anche questa. Abbiamo pubblicità, nuovo portiere. È il nuovo portiere del Merano, e seguitelo perché farà carriera. Beh, insomma, è giusto anche dare questo tipo di messaggi. Allora, Matteo, cosa festeggi questa sera con noi e qui da noi? Festeggio il mio celibato, che mi sono venuti a prendere mentre ero sotto la doccia. Ah, perfetto. Che brutta scena. No, bellissima. Anzi, ti dirò di più: da quanto sentivo dire prima all'ingresso, hanno proprio aspettato quel momento per salire, per coglierti in quei minuti. Dopo il tennis sudato. Infatti, esatto, mi stavo un attimo riprendendo e ho meno fatto la sua. Non hai avuto modo di riprenderti. Saluta Lino. Ciao Lino. Ok, e con chi ti sposi e quando? Con Isabella il... quando? Non lo so, non lo so. È il 14 luglio. Ah, ok, 14 luglio. E immagino stavate parlando di sport, quindi praticate anche qualche sport? Lui tutti. A tutti? Quelli tutti brutti. Male lui. Come tutti quelli brutti? No, cioè, come fai a distinguere uno sport bello e uno sport brutto? Ho fatto un po' di tutto. Li fa tutti, ma non benissimo. Ah, ok. Caccia le talpe. Davvero? Lui è un famosissimo boy scout. Sì, ma è veramente la caccia alle talpe? Sì, sì. Ah no, okay. Sì, beh, è bello quello. Lui non deve ascoltarlo perché ha la legge 104. Ah, ok. Ma lui è quello a cui non piace niente di... Ah, è quello. Okay. Quindi sta con lui, contesta a priori. Lui è opposizione a prescindere. Esatto. Lui è quello che in Camera dei Deputati cambia partito a seconda di chi vince, no? Lui si attacca. È proprio lui. È vincitore. Diciamo, io ho fatto un po'... Lui è Bastian Contrario. Tutti quanti gli sport. Beh, lui è Bastian Schweinsteiger, lui è Bastian Contrario. Bravo, bravo! Questa è bella, Guarda che questa era bella, Questa era molto bella, giocatevela ogni tanto. Tutto, mi stupisco anche di me stesso, ci sto ripensando. Ma perché... se vuoi mollare tu devi venire in giro con lui. È bello, bellissimo, vai. E no, sto dicendo, io ho fatto un po' tutti gli sport. Poi loro mi hanno portato anche male, a giocare male. Ho iniziato lo squash, ma ha vinto ancora Yardo quando abbiamo fatto il torneo. Anche lo squash? Ho provato il basket e ha vinto di nuovo Yardo. Vince sempre lui. Mentre loro fanno calcio, giusto? Lui è il portiere del Merano, se non l'ho già detto. È giusto ricordarlo. Inizia, bisogna seguirlo perché fa carriera. Mentre Mattia Valentini gioca nel Nalles, giusto? Nel Nalles. No, Super Nalles. Ah, bravo. Canale, okay. Soprattutto. Volevo salutare i miei ex compagni dello Schiller intanto. Ciao ragazzi. Buon campionato. E poi c'è Ben. Un po' di frecciatina. Ben ha smesso perché ha il ginocchio. Aspetta, cosa stavi dicendo? Ho un po' di frecciatina, ho sentito nel tuo tono. Era sincero. Stavi già criticando lo Schiller. Era sincero. Sembrava un malaugurio più che un augurio. Pensavo diceva di Fedez. Era finito tu. Chi è Fedez? Io, secondo te assomiglia a Fedez? No. Ho guardato un altro. No, sinceramente no. Vabbè, col tatuaggio può essere che. Cioè, nel senso, chiunque di noi assomiglia a Fedez con un tatuaggio qui. No, no, va bene, va bene, un gioco. È indovina chi questa intervista, non è? Beh, no, non è che mi caso, mi fermano in tanto. Meglio così, meglio così. Ma tutti hanno problemi di occhi. Ma non lo so, evidentemente. Beh, insomma, qualcuno ci vedrà, insomma, basta che non vi confondete nei momenti. Saluto Maria Grazia, ciao Maria Grazia. Ciao Mary. Noi saluto a tutti. Se si prende spazio per salutare tutti. Io saluto, ciao Lisa. Ciao giusto. Lisa. È giusto, è giusto, è giusto, è personale. È solo ciao, Dara. E ciao Isa, ecco dai. Bravi, basta, bravi, bravi. Perché dovete copiarla? L'anno l'ha salutata, allora, Lino, chiamalo dentro. Va bene. No, no, per vedere. Lui è sua. No, no, ma ci mancherebbe. No, ma è giusto così. Quindi aspetta, stiamo riassumendo, diciamo, quindi lo squash, il basket, cos'altro loro beach che giocano volley, a calcio, anche, che a Bolzano va fortissimo. Ah, giocato contro è pieno di giocato contro Bobo Vieri a Cervia. Ah, è vero, quello è vero. Sì. Loro poi a beach soccer, a Cervia. Ha perso 11-2. Ha fatto uno dei punti lui da solo contro. Ah, è vero che c'è stata questa cosa per tutta estate. E aspetta, cos'è che si vinceva? I ciupiti. No, lui, soprattutto lui ha vinto, no? Un cappellino durante la partita. E praticamente chi vinceva i cappellini suoi. Bravo, bravo. Io Ale, ho detto, vabbè, vado a giocare, ho vinto, i cappellini erano finiti. Fantastico. Me lo vado a comprare. E l'ho comprato. Sei un grande. Ma questo è veramente quindi uno contro due? Cioè lui giocava da solo contro due? Prima contro cinque. Ah, ok. Dopo chi vinceva tutto, giocava contro di lui da solo. È tipo il mostro finale di Super Mario, praticamente. Bravo! No? Passi tutti i livelli. Lui era grosso come il mostro. Esatto, esatto. Queste sono innamorate di me. Ciao, ciao, grandi, grandissimi. Quelle che c'erano prima dentro. Sì, le ho lasciato un bel ricordo, probabilmente. Però, salutiamo. E com'è sto Bobo Vieri? È effettivamente così matto come... gigante. È un armadio. Fortissimo, però. È forte? Sì. Bravo. Cioè, con i piedi era un paracarro praticamente. Invece, anche con le valigine era un paracarro. Beh, c'era la sbagliato. Costanza anche. Sì. Bene, molto bene. Bene. Lui è rimasto affascinato. Sì, non sei andato a dirgli ciao, sono Fedez? No, non glielo ho detto. Non ci hai provato, niente. Però... Lì potevi giocartela. Prossimo anno. Mary e Daniel che sta parlando. Schifo, <di mezzo. ride> Beh, ci sta. Va bene, e lo farà ancora sta cosa? O... Sì, quest'anno lo faccio. Ma... Però noi non partecipiamo, perché siamo troppo forti. Ma è vero Cappellino che... Cappellino Cioè, adesso, non, vabbè, a parte che non ci sentirà mai. Ma è vero che... Cioè, nel senso, lo aiutavano? In che senso? Io no. No. Loro, cioè quelli che organizzavano, no. Cioè che non era una cosa nata per caso, ma no. Ah, ho sentito sta cosa. Sicuramente. Scusate. Sì. No, solo una cosa, Ben voleva dire qualcosa. Lui è un ascoltatore medio. Quindi no, volevo solo sapere se erano vere queste voci che era un po' finanziato, ecco, diciamo, questo progetto nato dai social. No, è bello, interessante. E bene, volete salutare qualcuno? Siamo quasi in chiusura. Salutati prima. Però a parte quelli che avete già salutato. Okay, ciao mamma, ciao papà. Ciao Sebi e il mio gatto. Ciao Lino. Allora, ciao Lino, guarda che ci sta salutando da fuori. Quelli fuori, Lino. Marco, Andy, ciao Emil. Emil, ciao genitori, ciao Dennis, mio fratello. Che si sposa. Ciao Lorella. Si sposa la prossima anche settimana, lui. Mio fratello. E auguri. Ciao Tella, ciao Mariano. E ciao Gigi Buffon che gli fa gli auguri. Non dirlo perché sennò. Ah, no, beh, ma non vede, dai. Anche Buffon, quanta gente conoscete? No, ci sono. Abbiamo degli agganci. Ah, avete degli agganci. E tu giochi nel Merano ancora, conoscendo bravo. Gigi Buffon. Siamo l'hai detto. Dei miseri bolzanini. No, ricordo che Daniel Ardino gioca nel Merano da quest'anno. Ha finito allo Schiller dopo 7 anni. 8. Inizia nel Merano. Grazie. Seguitelo. Seguiamolo, sarà sicuramente una grande promessa. Intanto facciamo ancora gli auguri a Matteo per il suo futuro matrimonio. E grazie ai ragazzi che sono stati con noi in questi minuti per parlare un po' di come... Guarda che belli questi, si divertono tantissimo. Di quello che fanno a Bolzano, sportivissimi. Bravi, bravi ragazzi, a presto, buonanotte, grazie. Buona serata. Ciao. Grande.